Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, la crisi economica di cui speriamo di esserci lasciati alle spalle i momenti peggiori è stata anche una crisi della produzione, una crisi dell'industria e molti in Italia, meno soltanto in tutta Europa, hanno cominciato a riproporre una ricetta per salvare l'economia e l'industria e la manifattura, quella di avere una politica industriale, cioè forme di intervento dello Stato, scelte pubbliche che indirizzino in qualche modo la vita e le possibilità di ripresa delle industrie. Questo tema è un tema sul quale si sta discutendo molto, come vi dicevo, non soltanto nel nostro paese, ed è un tema sul quale mette in guardia un nome illustre dell'industria italiana, e cioè Franco De Benedetti, con il libro Scegliere i vincitori, salvare i perdenti, l'insana idea della politica industriale, pubblicato da Marsilio, 336 pagine, 18 euro. De Benedetti scrive a ragion veduta, oltre che imprenditore e manager, è stato parlamentare per il centro-sinistra ed è un attento lettore, commentatore dell'economia e dell'impresa, sempre da un punto di vista genuinamente a favore del mercato. In questo libro, come il sottotitolo sintetizza perfettamente, De Benedetti fa innanzitutto una storia della politica industriale che si è sempre risolta in un accentuato interventismo dello Stato in economia, il quale a sua volta si è spesso risolto in fallimenti epocali proprio per i settori industriali o per le industrie che si volevano salvaguardare. Poi De Benedetti smonta le ragioni della politica industriale tradizionale, per esempio esamina alcuni dei casi che secondo certi studiosi dimostrerebbero l'utilità della politica industriale, la quale a loro dire avrebbe potuto salvaguardare alcuni settori cosiddetti strategici, per esempio in Italia la telefonia. Ma sentiamo su questo l'autore. Buonasera a Franco De Benedetti. Franco De Benedetti, nelle prime pagine del suo libro lei ricorda il suo passato di manager e di imprenditore. Ecco, quando svolgeva queste funzioni professionali, aveva mai sentito bisogno di una politica industriale e se mai in quale senso? Diciamo all'inizio, quando avevo cominciato nell'azienda di familiare che aveva 85 persone, ecco, si pensava più a vendere i pezzi, a farli e magari anche a consegnarli alle ferrovie perché li portassero al cliente, piuttosto che pensare alla politica industriale. No, in politica industriale ho cominciato a pensarci, direi, negli anni della Fiat. Quando sono stato alla Fiat, sono stati anni di grande soddisfazione professionale, di grande impegno e anche di grande visione. Quello era il settore componente della Fiat, avevo 45.000 persone sotto, quindi era una bella. Quindi si pensa, poi c'erano le riunioni di Marentino, dove adesso gli ascoltatori forse non sanno che cos'era Marentino, un castello che la Fiat aveva preso nelle colline di Torino, aveva riadattato per riunioni di alto livello dei manager, e lì si parlava di strategie, quindi erano momenti di grandi, anche di intellettualmente molto stimolanti. Ecco. In uno dei primi capitoli lei smonta uno degli argomenti più diffusi a favore della politica industriale, quella secondo il quale lo Stato garantirebbe il ruolo di grande innovatore. C'è stato un libro famoso di cui abbiamo parlato anche in questa trasmissione di Mariana Mazzucato. Ecco, perché lei è contrario e vede, considera sbagliata questa visione? Ma vede, prima di tutto, allora vediamo, nel caso specifico di quello che dice la Mariana Mazzucato, io trovo che sono fattualmente erronei alcune delle sue affermazioni, che ho sentito anche in conferenza, sono fattualmente erronee, ma anche quando lei dice il suo cavallo di battaglia, non parliamo della Mazzucato, parliamo di noi, che è più interessante parlare delle ragioni, perché ci sono delle ragioni strutturali, direi, delle ragioni di fondo per cui la politica industriale, intesa come lo Stato che sceglie i vincitori, che siano imprese, che siano tecnologie, che siano settori industriali, che sceglie alcuni settori e investe su quelli. Il problema è in fondo molto semplice, è un problema di informazione, di costo delle informazioni, di disponibilità delle informazioni. Facciamo un esempio più banale, prendiamo un fornaio deve comprare dei forni, deve decidere comprare la farina, decidere quanto comprare, di che qualità, che tipi di pane fare, quanto farne e quale clientela. E queste informazioni le ha quasi gratuitamente sul mercato, le reperisce sul mercato nella misura che gli è necessaria e con la precisione e il dettaglio che gli sono necessari. scegliamo il ministro dell'alimentazione, che deve decidere quanto pane fare, chi lo deve fare, come farlo, come distribuirlo. Gli mancano le informazioni, gli manca il feedback da quella cosa chiamata mercato, gli manca il mercato. Allora è chiaro che avendo meno, sicuramente non le informazioni necessarie e le informazioni né necessarie né sufficienti per pianificare quanto pane deve essere distribuito in tutto il paese, esagero naturalmente. È chiaro che queste cose finisce come è andata a finire nell'economia di piano. Ora, nell'economia di piano adesso oramai nessuno più che, allora in quel caso lì non si deve salvare i perdenti ma si devono salvare i paesi. Adesso di questo oramai più nessuno parla, solo in qualche remota landa della Corea del Nord, ma però il concetto è sempre quello, il costo dell'informazione. Se io sono sul mercato ho le informazioni che mi servono per il mio commercio, per la mia industria. Se io pianifico ho meno informazioni, vado a rischio di sbagliare. E quello che è peggio, mentre il privato magari non riesce a crescere, quindi fallisce, nessuno se ne ricorda, nessuno ne sa neanche che sia esistito, lo Stato non ammette di avere sbagliato e quindi continua a investire, e più investe più va avanti. Queste cose sembreranno un po' strane, ma pensiamo a quello che è capitato nell'acciaio in Italia, pensiamo a quello che è capitato nell'industria automobilistica, dove abbiamo avuto il confronto tra i grandi successi che ha avuto l'impresa privata e una delle imprese private e gli insuccessi tremendi neanche dell'Alfa Romeo, perché l'Alfa Romeo di Arese risentiva ancora delle radici passate, della vera investimento che è stato fatto, che è stato deciso di fare automobili nel sud a Pomigliano, un problema che ci è andato decenni per risolverlo. Un altro argomento che lei affronta è quello secondo il quale la politica industriale potrebbe servire a salvaguardare alcuni settori. In Italia lei parla della fine dell'informatica, del dissesto della telefonia, potremmo aggiungere anche di una grossa crisi della chimica. Ecco, questo argomento è valido? Certamente, noi non abbiamo costruito l'Olivetti dell'ingegner Chu, il mitico ingegner Chu dell'epoca di Adriano Olivetti, aveva costruito Elea, il primo grande calcolatore, credo uno dei primi, battuto credo l'IBM sul filo di là, insomma comunque siamo andati insieme, ecco. Fatto a transistor anziché essere fatto a valvole termoioniche come era in passato. Però io sostengo, e credo di dare la dimostrazione, che l'Olivetti non poteva vincere quella battaglia. Non poteva vincerlo per motivi, alcuni per motivi che dipendono dal mercato in cui operava. Tant'è vero che in Europa non c'è riuscita nessuno. Non c'è riuscito la SIEL inglese, che tra l'altro era l'erede dei computer che erano stati fatti per violare il codice Enigma, su cui ci sono stati anche dei film anche abbastanza famosi. Non è riuscita la Philips in Olanda, non è riuscita la Siemens in Inghilterra. Non è riuscita sostanzialmente neanche la Bull in Francia, nonostante sia stata tenuta in vita da generosi finanziamenti pubblici. Per quale motivo avrebbe dovuto riuscirci l'Olivetti? Se intendiamo quello. L'Olivetti, per quello che è stato l'abbandono dell'informatica, dei grandi calcolatori, che ancora oggi viene rimproverato al gruppo di salvataggio che venne organizzato da Mediobanca e che aveva anche la presenza importante della Fiat, e ricordo la frase che disse Vittorio Valletta: l'Olivetti è un'azienda sana, però ha un nero da estirpare, i calcolatori. L'Olivetti poi ha fatto delle grandi cose, tra l'altro l'architettura di sistema informatico dell'Olivetti, mi ricordo che la pubblicità diceva Olivetti informatica distribuita, è l'architettura di sistema che è sostanzialmente, adesso fatte le debite proporzioni e passati i convenienti decenni, è l'informatica che abbiamo oggi, cioè le operazioni vengono fatte sul personal computer che poi viene collegato in rete, adesso abbiamo il cloud, allora non c'era il cloud, insomma l'architettura di sistema è quella. Però anche per vincere quella battaglia, io non credo che l'Olivetti avesse le possibilità di farcela, in parte perché per fare quello bisognava abbandonare tutto il resto. Ora, chi è che ha il coraggio di dire no, io mi dedico a questo perché questo è il futuro, e butto via le calcolatrici meccaniche, le divisum, le macchine per scrivere, le fabbriche, gli operai. Ecco, c'è una ragione per cui riescono. Chi è che è riuscito? Chi partiva dal garage? Questi sono riusciti. E c'è una ragione per questo. Se noi eravamo troppo legati, il conto economico di un'azienda non è che uno può dire vabbè, butto via tutto e ricomincio da capo. Il conto economico ha una sua fiducia, aveva bisogno di certi fatturati, e questi fatturati non è che potessero arrivare dai prodotti che si potevano progettare, dovevano arrivare dai prodotti che erano già in vendita. Quindi con questo, secondo me, è stata la ragione strutturale. Oltretutto c'è anche il fatto che noi, io mi ricordo nei consigli di amministrazione, una delle preoccupazioni grandi era che cosa diamo da fare a questi operai in queste fabbriche, invece che dire pensiamo ai prodotti del futuro. E è chiaro che si pensava anche ai prodotti, però c'era sempre questa preoccupazione e questo vincolo costante. Quindi io ritengo che quando si dice abbiamo perso l'informatica, si fa la svelta a dare la colpa agli imprenditori, che sicuramente avranno sicuramente avuto le loro colpe, ma bisogna guardare un po' alle ragioni strutturali, soprattutto quando questi sono fenomeni che riguardano tutta l'Europa. Per la Telecom poi io ritengo che è sbagliato dire che, e anche lì ci sono delle cause. Parliamo della rete a banda larga. Alcuni anni fa è venuto l'Ofcom, cioè l'ufficio dell'autorità delle governative inglese delle comunicazioni, a fare una conferenza alla Bocconi, e diceva come i paesi che hanno banda larga sono i paesi che prima hanno avuto la televisione via cavo. Noi non abbiamo avuto televisione via cavo. Il fatto che ci fosse un'infrastruttura via cavo, che ovviamente il cavo coassiale all'epoca, che ovviamente si può trasformare abbastanza rapidamente con poco costo a fibra ottica, e soprattutto c'è già i clienti attaccati, quindi questa è una cosa importante per una parte. Quindi questo ha creato una concorrenza tra la rete telefonica nazionale, che c'è tutti i paesi, e ogni paese va la sua, e la rete televisiva a via cavo. Quando il monopolio statale è stato smantellato o venduto e dal cavo si è passato alla fibra ottica, chi vendeva televisione faceva la scelta poter vendere anche servizi collegamenti a internet. Questo ha creato una accelerazione, una concorrenza che ha sicuramente accelerato il processo di trasformazione della rete in rame e in rete in cavo. Ma è interessante sapere perché in Italia non è venuta la televisione via cavo. E non è venuta perché il governo l'ha proibito. Lei si ricorda quando c'è stato Telebiella, no? La STET aveva il monopolio della trasmissione radiofonica e televisiva, la RAI, che è un monopolio, e fin tanto che Berlusconi non l'ha sfidato. E si è fatta fare una legge per cui non era solo la trasmissione radiofonica, ma anche lo scalare cunicoli e mettere reti nei terreni era un monopolio stesso. Allora, quando si parla dei confronti, bisogna andare alle origini, bisogna ricordare le cose che sono capitate. Grazie a Franco De Benedetti, autore di Scegliere i vincitori, salvare i perdenti. Buonasera. Arrivederci, direttore, la ringrazio molto e saluto gli ascoltatori. E De Benedetti, vi ricordo, è stato amministratore delegato dell'Olivetti, di cui era proprietario il fratello Carlo. Una ricetta alternativa viene da due studiosi, appunto, di politica industriale, Sandro Trento e Flavia Faggioni, che insegnano all'Università di Trento. Il loro libro si intitola Imprenditori cercasi, innovare per riprendere a crescere, è pubblicato dal Mulino, 178 pagine, 14 euro. Questo libro prende le mosse dai cambiamenti epocali che le nuove tecnologie hanno determinato sul modo di lavorare e di produrre. Un'autentica rivoluzione, spiegano gli autori, che fa sì che la crescita economica dipenda ormai, cito dal loro libro, soprattutto dalla capacità di usare intelligenza e conoscenza, e sempre meno dal semplice aumento della quantità di capitale e di lavoro utilizzati. La risorsa strategica, insomma, che segna la differenza tra i sistemi dinamici e i sistemi statici, è la nuova imprenditorialità innovativa. E questo capitalismo imprenditoriale, concludono gli autori, ha bisogno di alcuni fattori che hanno poco a che fare con la tradizionale politica industriale. Essi per esempio indicano come dei fattori importanti la riduzione della burocrazia, la maggiore facilità nell'accesso alla finanza, il minore peso del fisco per chi fa impresa, una maggiore concorrenza nel sistema, un miglioramento del sistema formativo, una maggiore fiducia negli investimenti esteri e naturalmente la lotta alla corruzione. E su questo ci interrompiamo per un attimo, ci sentiamo fra pochi istanti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubo. Oggi si è conclusa a Milano la 21esima edizione di Orticola, la mostra mercato di fiori, piante e frutti insoliti, che è diventato uno degli appuntamenti anche mondani più importanti della primavera. Ai reduci da Orticola, o comunque agli appassionati di giardinaggio, segnalo il libro di uno scrittore americano che già abbiamo incontrato in questa trasmissione, Michael Pollan. Ne avevamo recensito il libro Cotto. Adesso Pollan torna con Una seconda natura, pubblicato da Delphi, 310 pagine, 22 euro, tradotto da Isabella Blum. Questa volta Pollan non ci parla appunto più di cibi, ma di giardini, tra quello mitizzato che incontriamo nei libri e nei ricordi e quello reale, molto reale, che Pollan cerca di curare nel Connecticut, un giardino per coltivare il quale, scrive, si sta rabbattando ormai da 7 anni, naturalmente con l'ideale, con l'obiettivo di far coincidere il suo giardino, il suo piccolo giardino che coltiva con tanta fatica, con il giardino ideale che ha nella mente. Quando l'autore approcciò il duro mestiere del giardiniere, scoprì di avere bisogno anche di un po' di filosofia per fare bene il giardiniere. Pollan fa infatti un esempio: prima di scatenare un attacco incendiario contro la tana di una marmotta, preferisco avere dalla mia anche un po' di teoria. E c'è una tradizione antigiardino negli Stati Uniti, una tradizione che risale addirittura a uno dei grandi miti della letteratura americana, cioè Thoreau, che visse in prima persona le contraddizioni di chi seminò un campo di fagioli e deve, come capitò a lui, doverlo disinfestare dalle erbacce, turbando quindi il corso della natura. E quindi proprio per questo Thoreau decise di lasciare l'agricoltura, di piantare il campo di fagioli e di rifugiarsi in una palude. Come dice l'autore, Thoreau dovette abbandonare il campo di fagioli, dichiarando infine di preferire la più tetra palude a qualsiasi orto o giardino. Dunque, nel giardino si misura il tipo di rapporto che vogliamo costruire con la natura, prescindendo naturalmente dall'utopia di non contaminare per nulla la natura. E proprio il giardino, più che il bosco, è, secondo l'autore, il luogo più adatto per dare concretezza a questo difficile rapporto tra l'uomo e la natura. Il libro è diviso in 4 parti, ciascuna intitolata Una stagione, e sentiamo adesso per esempio dal capitolo primaverile alcune riflessioni sul prato. Negli Stati Uniti, come sappiamo, è d'obbligo che ciascuno tenga ben curato e rasato il prato davanti alla propria casetta, e Pollan all'inizio si adegua a questo cliché anche di carattere sociale, perché chi non cura il giardino è mal visto dai vicini, e poi a un certo punto si manifesta la sua ribellione. Più prendevo il giardinaggio sul serio, più i prati ben curati mi apparivano discutibili. Il problema per me non stava, come per mio padre, nel rapporto con i vicini implicato dal prato, ma nel rapporto di quest'ultimo con la natura. Perché per quanto possa essere democratico verso i vicini del suo proprietario, nei confronti della natura il prato è autoritario. Sotto la lama brutale e indiscriminata del tosaerba, il paesaggio viene soggiogato, omogeneizzato, completamente dominato. Mi convinsi che la cura del prato non ha a che fare con il giardinaggio, molto più di azioni come passare la cera sui pavimenti o asfaltare una strada. Il giardinaggio era un sottile processo di dare e prendere nei confronti del paesaggio, la ricerca di una qualche terra di mezzo fra cultura e natura. Un prato era la natura sotto il tacco della cultura. Un bellissimo giardino inglese troviamo nel libro di John Sampson, Il reverendo, le rose e le stravaganze del professore, pubblicato da Tea, 310 pagine, 16 euro, tradotto da Flavio Iannelli. Siamo negli anni 30, nel Norfolk, una regione che, come spiega l'autore, è una delle più importanti dell'Inghilterra dal punto di vista letterario. In un tipico borgo della regione capita una strana coppia formata da un intellettuale un po' strambo che sta scrivendo una storia d'Inghilterra accompagnata da una specifica serie di guide dedicate ciascuna a ogni singola regione dell'Inghilterra, e l'altro partner della coppia è il narratore, un giovane reduce dalla guerra civile spagnola che a corto di soldi accetta la proposta di accompagnare il professore appunto per sbarcare il lunario. Nella loro prima tappa i due faranno i conti con la morte misteriosa del vicario di questo borgo, artefice appunto del magnifico giardino, un giardino che fa andare in sollucchero l'erudito professor Marley, come spiegano queste righe. Mr. Morley era anche un appassionato orticoltore, la cui considerazione per i giardinieri era di poco inferiore a quella per la sua professione di letterato. «Ah ah!» esclamò Morley in un crescendo di gioia, perdendosi nel momento estatico, come gli capitava spesso, mentre uscivamo in giardino. «L'iris tuberosa, la bocca di leone, la forsizia, le rose e anche una magnolia!» Guardi, Sefton, che meraviglia! Una composizione concettualmente splendida. Inspirò con voluttà ed espirò. E che fragranza, Mrs. Snatchfold! Ti assale i sensi non appena metti piedi all'esterno, come una porta che dà sul paradiso. Inspirò un'altra volta. E questo aroma, poi! Limone caldo speziato mescolato con... Prese una terza boccata d'aria, tirandosi quegli afrori verso il viso con ampi gesti delle mani, come se anelasse ad assorbire non solo l'odore, ma anche il colore e il sapore stesso del giardino, mescolato con terra asciutta e prugna, e forse anche con qualcosa che ricorda appena i lillà. «Se lo dice lei», commentò Mrs. Snatchfold, visibilmente turbata dal repentino entusiasmo di Morley. Siamo in presenza, insomma, di un bel giallo all'inglese che molti critici hanno salutato come la prova più matura dello scrittore irlandese. Ancora un riferimento vegetale troviamo nel libro di una scrittrice australian-britannica, Angela Thirkell, morta nel 1961 e oggi oggetto di una rinnovata considerazione da parte soprattutto del pubblico di lingua inglese. A storia pubblica, Fragole selvatiche, 234 pagine, 16 euro, tradotto da Marina Morpurgo. Qui abbiamo un altro tipico borgo inglese dominato dalla lady del posto, la protagonista del romanzo, Emily Leslie, deliziosa nella sua capacità di scombinare ogni situazione, compreso il servizio religioso domenicale, come per esempio illustrano queste righe che danno voce al disappunto del pastore per l'arrivo fragoroso della signora. Ogni domenica i suoi nervi erano messi a dura prova, mentre l'intera famiglia faceva il suo ingresso nel bel mezzo della confessione generale, con Lady Emily che seminava libri di preghiera e sciarpe e assegnava i posti a ciascuno con amorevoli chiassosi bisbigli. Durante la guerra il figlio maggiore aveva combattuto in Francia, il secondogenito John era entrato in marina e Rushwater House era diventata un convalescenziario. Ma la vitalità di Lady Emily non ne aveva risentito e la sua partecipazione alla funzione del mattino era risultata più che mai molesta all'infastidito pastore, perché Lady Emily guidava branchi di convalescenti facendoli accomodare sulla sua panca, aiutandoli senza alcuna necessità a gestire le stampelle, spostando i cuscini sugli inginocchiatoi, coprendo con scialli le spalle di uomini pieni di gratitudine e di imbarazzo, per proteggerli da spifferi immaginari, parlando con un sussurro penetrante che distraeva il pastore dalla funzione e comportandosi nel complesso come se la chiesa fosse la casa di amici suoi. Protagonisti segreti del regno vegetale sono gli elfi e li troviamo nel libro di un'autrice francese che ha avuto un enorme successo non solo nel suo paese con L'eleganza del riccio, vi ricordate, si chiama Muriel Barbery e adesso pubblica Vita degli elfi, è pubblicato da Edizioni E, o 254 pagine, 18 euro, tradotto da Alberto Bracci Testasecca. Questo libro parte dalla Borgogna, passa in Abruzzo e a Roma e si conclude appunto nel mondo delle brume. È una storia tutt'altro che fiabesca e fatata, perché troviamo un elfo traviato e malvagio che vuole distruggere l'umanità e lo combatteranno due ragazzine, una borgognona appunto e l'altra abruzzese emigrata a Roma per studiare musica, entrambe dotate di grandi poteri e istruite proprio dagli elfi, quelli buoni, per collaborare con gli uomini. Il clima è magico, cangiante, ricco di spunti ed intrecci, forse perfino troppi, hanno osservato alcuni critici, che però hanno dato atto della ricchezza della trama e della curiosità di molti personaggi, a partire dalle due ragazzine dotate di poteri straordinari come questo che Maria manifesta nelle righe che adesso vi propongo. Maria frequentava la religione della poesia tutti i giorni, quando saliva sugli alberi e ascoltava il canto dei rami e delle foglie. Aveva capito molto presto che gli altri si muovevano nella campagna come ciechi e sordi, per i quali le sinfonie che lei ascoltava e i quadri che lei abbracciava non erano altro che rumori della natura e paesaggi muti. Quando se ne andava per campi e boschi, Maria era in contatto permanente con flussi materiali in forma di tracciati impalpabili ma visibili, che le facevano conoscere i movimenti e le radiazioni delle cose. E il motivo per cui le piaceva andare d'inverno alle querce della comba del campo vicino era che anche ai tre alberi piaceva l'inverno e vi tratteggiavano sopra incisioni vibranti di cui lei vedeva e sentiva tocchi e curve come fosse una stampa magistrale incarnata nell'aria. Maria, per giunta, non dialogava solo con la materia, ma aveva scambi anche con gli animali di quelle terre. E a questo punto... Il confettino. Ambientata in un bosco è la storia di Spino, il protagonista del libro omonimo di Ilaria Guarducci pubblicato da Camelo Zampa a 14 euro. Qui troviamo Spino, appunto un cattivo e ringhioso animale, quando è ancora un essere coperto di spine, che poi perderà questa sua veste così malvagia per assumere comportamenti e atteggiamenti molto differenti che gli permetteranno di scoprire l'amicizia fino al colpo di scena finale. E con questo ringrazio Luca Cambonesi in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.